Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan scese per la stessa scala da cui era salito e davanti alla porta trovò Athos e i quattro moschettieri che aspettavano il suo ritorno e cominciavano a essere in ansia. Subito D'Artagnan li rassicurò e Planchet corse ad avvertire le altre sentinelle che era inutile stare più a lungo di fazione, visto che il suo padrone era uscito sano e salvo dal Palais Cardinal. Rientrati in casa di Athos, Aramis e Porthos si informarono delle ragioni di quello strano invito, ma D'Artagnan si limitò a dire che Monsieur de Richelieu l'aveva fatto chiamare per proporgli di entrare nelle sue guardie con il grado di insegna e che lui aveva rifiutato. «E avete fatto bene!» esclamarono a una voce Porthos e Aramis. Athos si immerse in una profonda meditazione e non aggiunse parola, ma quando fu solo con D'Artagnan, «Avete fatto ciò che dovevate fare, D'Artagnan», egli disse, «ma forse avete sbagliato». D'Artagnan sospirò perché quella voce rispondeva a una voce segreta del suo animo che gli diceva che gravi sventure lo aspettavano. Il giorno seguente trascorse nei preparativi della partenza. D'Artagnan si recò a salutare Monsieur de Tréville. In quel momento si pensava ancora che la separazione delle guardie e dei moschettieri fosse momentanea, perché il re teneva parlamento in quel giorno stesso e doveva partire l'indomani. Monsieur de Tréville si limitò quindi a domandare al giovane se avesse bisogno di lui, ma D'Artagnan rispose fiero che aveva tutto l'occorrente. La notte riunì tutti i camerati della compagnia delle guardie di Monsieur de Cessart e della compagnia dei moschettieri di Monsieur de Tréville, che avevano stretto amicizia. Ci si lasciava per rivedersi quando a Dio piaceva e se a Dio piaceva. Perciò fu una notte rumorosissima, come si può immaginare, perché in simili occasioni l'estrema preoccupazione si combatte solo con l'estrema spensieratezza. L'indomani, al primo squillo delle trombe, gli amici si separarono. I moschettieri corsero al palazzo di Monsieur de Tréville, le guardie a quello di Monsieur de Cessart. Entrambi i capitani condussero subito la propria compagnia al Louvre, dove il re le passava in rivista. Il re era malinconico e pareva malato, il che in parte sminuiva la fierezza del suo portamento. Infatti la vigilia era stato colto dalla febbre durante la seduta in Parlamento mentre era sul trono. Tuttavia era deciso a partire la sera stessa e, nonostante i suggerimenti datigli, aveva voluto passare in rivista le compagnie, sperando con una prima scossa vigorosa di vincere il male che incominciava a impadronirsi di lui. Terminata la rivista, soltanto le guardie si misero in marcia, poiché i moschettieri aspettavano di muoversi con il re, il che permise a Porthos di andare a fare, nel suo sfolgorante equipaggiamento, un giretto in Rue Ozur. La procuratrice lo vide passare nell'uniforme nuova e sul suo bel cavallo. E l'amava troppo, Porthos, per lasciarlo partire così. Gli fece segno di smontare e di salire da lei. Porthos era splendido. Gli speroni tintinnavano, la corazza luccicava, la spada gli batteva fieramente sui garretti. Questa volta agli scrivani passò la voglia di ridere, tanto Porthos assomigliava a un terribile ammazzasette. Aramis scriveva una lunga lettera. A chi? Nessuno ne sapeva niente. Nella stanza attigua, Ketty, che la sera stessa sarebbe partita per Tours, aspettava la misteriosa missiva. Athos centellinava l'ultima bottiglia del suo vino di Spagna. Nel frattempo, D'Artagnan sfilava con la sua compagnia. Arrivando al Faubourg Saint-Antoine, egli si voltò per guardare allegramente la Bastiglia. Ma poiché era intento soltanto a fissare la Bastiglia, non scorse Milady, la quale su un cavallo color Isabella lo additava a due individui dalla faccia poco rassicurante, i quali subito si avvicinarono alle file per riconoscerlo. A una loro occhiata interrogativa, Milady rispose con un cenno che era proprio lui. Poi, sicura che non potessero più sorgere equivoci nell'esecuzione dei suoi ordini, Milady spronò il cavallo e disparve. I due uomini allora seguirono la compagnia e all'uscita del Faubourg Saint-Antoine salirono su due cavalli già pronti che un domestico senza livrea, lì in attesa, teneva per le briglie. L'assedio di La Rochelle fu uno dei grandi avvenimenti politici del regno di Luigi XIII e una delle grandi imprese militari del cardinale. È quindi interessante e perfino necessario che vi spendiamo due parole. Parecchi particolari di quell'assedio si legano d'altronde in modo troppo importante alla storia che abbiamo cominciato a narrare per passarli sotto silenzio. Le mire politiche del cardinale quando iniziò l'assedio erano notevoli. Esponiamole per prime, per poi passare alle mire private, che forse non ebbero su sua eminenza minor peso di quelle. Delle città importanti date da Enrico IV agli Ugonotti come piazzaforti non rimaneva che La Rochelle. Si trattava dunque di distruggere questo baluardo del calvinismo, pericoloso lievito a cui si andavano continuamente mescolando fermenti di ribellione civile o di guerra con altri paesi. Spagnoli, inglesi, italiani scontenti, avventurieri di ogni nazione, soldati di ventura di qualsiasi setta, accorrevano alla prima chiamata sotto le bandiere dei protestanti e si organizzavano come una vasta associazione che aveva ramificato in ogni parte d'Europa. La Rochelle, che aveva acquistato nuova importanza anche per la distruzione delle altre città calviniste, era quindi il focolaio dei dissensi e delle ambizioni. Per di più, il suo porto era l'ultimo accesso aperto agli inglesi nel Regno di Francia e, chiudendolo all'Inghilterra, nostra eterna nemica, il cardinale concludeva l'opera di Giovanna d'Arco e del duca di Guisa. Ma l'abbiamo già detto, oltre alle mire politiche, mire che appartengono alla storia, il cronista è costretto a rilevare i propositi dell'uomo innamorato e del rivale geloso. Richelieu, come tutti sanno, era stato innamorato della regina. Se tale amore avesse per lui un puro scopo politico o fosse semplicemente una di quelle profonde passioni quali ne ispirò Anna d'Austria, è una cosa difficile da stabilire, ma in ogni caso, dai precedenti sviluppi di questa storia, si è visto che Buckingham aveva avuto la meglio su di lui e in due o tre circostanze, e particolarmente in quella dei puntali di diamanti, grazie all'abnegazione dei tre moschettieri, lo aveva crudelmente beffato. Richelieu sapeva che combattendo l'Inghilterra combatteva Buckingham, che trionfando sull'Inghilterra trionfava su Buckingham e che infine, umiliando l'Inghilterra agli occhi dell'Europa, umiliava Buckingham agli occhi della regina. Dal canto suo, Buckingham, pur anteponendo l'onore dell'Inghilterra, era mosso da interessi analoghi a quelli del cardinale. Anche Buckingham perseguiva una sua vendetta. Con nessun pretesto era potuto tornare in Francia come ambasciatore. Ora voleva rientrarvi come conquistatore. Di conseguenza, la vera posta di quella partita che i due più potenti regni giocavano per il piacere personale di due innamorati era uno sguardo di Anna d'Austria e nient'altro. La prima vittoria era toccata al duca di Buckingham, giunto inaspettato in vista dell'isola di Re, con 90 vascelli e circa 20.000 uomini, aveva colto di sorpresa il conte di Thouars, che in nome del re comandava l'isola. Dopo un cruento combattimento aveva operato lo sbarco. Diciamo di sfuggita che in quel combattimento era perito il barone di Chantal, il quale lasciava orfana una bimba di 18 mesi. Quella bimba sarebbe stata la futura Madame de Sévigné. Il conte de Thouars si ritirò nella cittadella Saint-Martin con la guarnigione e ficcò un centinaio di uomini in una piccola fortezza chiamata il Forte di La Prée. Questo avvenimento aveva affrettato le decisioni del cardinale e in attesa che lui e il re potessero andare ad assumere il comando dell'assedio di La Rochelle, già stabilito, aveva fatto partire Monsieur, il fratello del re, a dirigere le prime operazioni inviando intanto verso il teatro della guerra tutte le truppe di cui aveva potuto disporre. Di questo distaccamento mandato in avanguardia faceva parte il nostro amico D'Artagnan. Come abbiamo detto, il re sarebbe partito dopo la seduta in Parlamento, ma nell'alzarsi da codesta seduta il 28 giugno era stato colto dalla febbre. Aveva però voluto partire ugualmente, ma un peggioramento delle sue condizioni l'aveva costretto a fermarsi a Villeroy. Ora, dove si fermava il re, si fermavano i moschettieri, ragion per cui D'Artagnan, che serviva semplicemente nelle guardie, si trovava, momentaneamente almeno, separato dai suoi amici Athos, Porthos e Aramis. Tale separazione, per lui una semplice contrarietà, si sarebbe di certo mutata in grave inquietudine se avesse potuto indovinare da quali ignoti pericoli fosse circondato. Egli giunse tuttavia senza incidenti al campo posto davanti alla Rochelle verso il 10 di settembre dell'anno 1627. Le guardie, a comando di Monsieur de Cessart, alloggiavano nel convento dei frati minori, ma lo sappiamo, D'Artagnan, tutto preso dall'ambizione di passare nei moschettieri, aveva legato poco con i compagni d'arme e si trovava perciò isolato e immerso nelle proprie riflessioni. Dal punto di vista dell'amore, l'unica donna da lui amata era Madame Bonacieux e Madame Bonacieux era scomparsa senza che egli fosse ancora riuscito a scoprirne la sorte. Dal punto di vista della carriera si era fatto nemico lui, che non era nessuno, il cardinale, cioè un uomo dinanzi al quale tremavano i più grandi del regno, a cominciare dal re. Aveva acquistato la protezione e la benevolenza della regina, ma la benevolenza della regina, con i tempi che correvano, era un motivo in più di persecuzione. E la sua protezione, si sa, proteggeva poco. Il guadagno più evidente era il diamante che aveva al dito del valore di 5 o 6.000 livre, e anche il diamante, supponendo che D'Artagnan, nei suoi ambiziosi progetti, volesse conservarlo per servirsene un giorno come segno di riconoscimento presso la regina, visto che non poteva disfarsene, non valeva di più dei ciottoli che calpestava camminando. Diciamo dei ciottoli che calpestava camminando perché D'Artagnan si abbandonava a tali riflessioni proprio mentre passeggiava solitario per un grazioso viottolo che dall'accampamento conduceva al villaggio di Angoutin. Ora le riflessioni l'avevano condotto più lontano di quel che credesse, e il giorno cominciava a calare quando, all'ultimo raggio del sole morente, gli parve di vedere brillare dietro una siepe la canna di un moschetto. D'Artagnan aveva la vista acuta e la mente sveglia, capì che il moschetto non era capitato lì da solo e chi lo portava non si era nascosto dietro una siepe con intenzioni amichevoli. Decise quindi di girare al largo quando, dall'altro lato della strada, dietro una roccia, scorse l'estremità di un altro moschetto. Evidentemente era un'imboscata. Il giovane gettò un'occhiata al primo moschetto e con una certa ansia vide che si abbassava nella sua direzione, ma non appena scorse l'orifizio della canna immobile, si buttò ventre a terra. Nel momento stesso il colpo partì ed egli udì il sibilo di una pallottola passargli sulla testa. Non c'era tempo da perdere. D'Artagnan si rizzò d'un balzo e nello stesso istante la pallottola dell'altro moschetto fece schizzare via i ciottoli proprio in quel punto della strada dove lui si era buttato faccia a terra. Quell'episodio poteva avere tre cause. La prima e la più naturale poteva essere un'imboscata dei roccellesi a cui non sarebbe dispiaciuto uccidere una guardia di Sua Maestà, prima di tutto perché era un nemico di meno e poi perché questo nemico poteva avere in tasca una borsa ben fornita. D'Artagnan prese il suo cappello, esaminò il foro della pallottola e scosse il capo. Non era una palla di moschetto, ma di archibugio. La precisione del colpo gli aveva già suggerito l'idea che fosse stato sparato da un'arma speciale. Non era quindi un'imboscata militare, visto che la pallottola non era di calibro normale. Poteva essere un buon ricordo del cardinale, ma D'Artagnan scosse il capo. Sua Eminenza ricorreva di rado a simili sistemi. Poteva essere una vendetta di Milady. La cosa era più plausibile. Tentò invano di ricordarsi o le facce o l'abito dei sicari. Si era allontanato da loro così in fretta che non aveva avuto agio di notare nulla. «Ah, poveri amici miei», mormorò, «dove siete? E quanto mi mancate!» D'Artagnan passò una notte pessima. Tre o quattro volte si svegliò di soprassalto, immaginandosi che qualcuno si accostava al letto per pugnalarlo. Tuttavia spuntò il giorno senza che le tenebre provocassero il minimo incidente. Ma D'Artagnan rimase convinto che la cosa era stata solo rimandata. Egli se ne stette tutto il giorno nel suo alloggio, trovando con se stesso il pretesto che il tempo era brutto. Di lì a due giorni alle 9 si sentì suonare a raccolta. Il duca di Orléans ispezionava le posizioni. Le guardie corsero a prendere le armi. D'Artagnan prese il suo posto fra i camerati. Il fratello del re passò in rassegna il fronte di combattimento. Poi tutti gli ufficiali superiori gli si avvicinarono per porgergli il benvenuto e Monsieur de Cessar, il capitano delle guardie, con gli altri. Dopo qualche attimo sembrò a D'Artagnan che Monsieur de Cessar gli facesse cenno di avvicinarsi. Aspettò un nuovo gesto del superiore per timore di ingannarsi, ma a un secondo cenno lasciò le file e venne avanti a prendere l'ordine. Monsieur chiede degli animosi per una missione pericolosa, che però farà onore a chi la adempirà, e vi ho fatto segno perché vi teneste pronto. Grazie, capitano, rispose D'Artagnan, il quale non chiedeva di meglio che distinguersi agli occhi del luogotenente generale. Infatti, i roccellesi avevano tentato una sortita durante la notte, rioccupando un bastione di cui l'esercito del re si era impadronito due giorni prima. Si trattava di spingersi in ricognizione allo sbaraglio per vedere come i nemici tenessero il bastione.